24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Franco Schipani e Alessandra Fiori ci porteranno nel 2005. Ma prima vogliamo tornare a un giorno di 35 anni fa. Era il 30 aprile dell'82 e a Palermo moriva sotto i colpi della mafia Pio La Torre, ex segretario regionale del PC e primo parlamentare ucciso da Cosa Nostra. La Torre muore in un agguato nel cuore di Palermo, la sua città. Venerdì 30 aprile 1982. Via Edoardo Carapelle, ore 9:16. Pio La Torre lascia la sua abitazione a bordo di un'auto guidata da Rosario Di Salvo. Piazza Generale Turba, ore 9:21. I sicari sono già appostati sul luogo dell'agguato. Il gruppo di fuoco è composto da 3 persone. Ore 9:25. L'auto di Pio La Torre e Rosario Di Salvo percorre Corso Pisani e prosegue per Piazza Generale Turba. Ore 9:27. L'auto è all'altezza dell'ingresso della caserma Andrea Sole. All'improvviso, un'altra auto le blocca il passaggio. È l'inferno. Scese di corsa, andavi a trovare, c'è una scena ripresa dal telegiornale incredibile. Lui si difese dando calci, si trova la mano del piede fuori perché si vede che lui ha scalciato. A Piazza Vittoria e dovevo comprare 2 uccellini ai ragazzi. Compro queste 2 gabbiettine piccoline. Appena entro in via Panisterna alla punta, vedo che c'era tutta la gente fuori. Man mano che mi avvicinavo, ho visto che c'erano le saracinesche abbassate e gli uomini messi fuori, tutti fuori. Giù davanti il portone c'era Agata, mia sorella, non so chi c'era più, compagna di partito. Io mi sono avvicinata e ho detto: hanno ammazzato Pio. Lo capì. Portarono subito da Pio. Da Pio c'era Pio qua e l'altro compagno là. Io ero accanto a Bufalini, che mi stringeva la mano, che mi fece pure male. Questo fu tutto. Stroncato La Torre, nel feroce e vile agguato, noi davanti al suo feretro prendiamo l'impegno di continuare con fermezza e intelligenza, con obiettività e coraggio questa lotta. Perché hanno ucciso La Torre? Perché hanno capito che egli non era uomo da limitarsi a discorsi, analisi, denunce di una situazione. Ma era un uomo che faceva sul serio, Un uomo che faceva sul serio, e Enrico Berlinguer a definirlo così nel giorno del funerale. E infatti l'impegno antimafia di Pio La Torre, che gli è costato la vita, è continuato anche dopo la sua morte. A settembre dell'82 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre, un testo che per la prima volta introduce nel codice penale italiano il reato di associazione mafiosa e il sequestro dei beni per i mafiosi. Un testo frutto di una lunga discussione che oggi è strumento decisivo nella lotta contro la criminalità organizzata. Legge che introduce nel nostro codice un nuovo fondamentale articolo, il 416 bis. Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente. Articolo 416 bis. Associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Il 31 marzo dell'80 Pio La Torre deposita alla Camera una proposta di legge rivoluzionaria discussa a lungo con i suoi compagni di partito. A raccontarlo uno di loro, Luciano Violante. Si lavorò insieme per mettere a punto questo testo. Lui cercava di convincerci e ci convinse naturalmente che il problema di fondo era togliere, lui diceva, i piccioli, i soldi alla mafia. Concentrare la nostra attenzione su l'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere i riflettori. In realtà ci vorranno 2 anni perché la legge Rognoni-La Torre inizi il suo cammino in aula e 2 anni e mezzo perché venga alla fine approvata. Intanto La Torre continua la sua attività politica, ma Pio La Torre sta preparando un altro colpo di scena nella sua lunga vita politica, il ritorno in Sicilia. A parlarcene Adriana Laudani e Emanuele Macaluso. A livello nazionale le 2 grandi partite che lui gioca sono la partita per l'approvazione della legge che poi verrà chiamata la legge Rognoni-La Torre e dall'altra parte contemporaneamente la richiesta della venuta di Dalla Chiesa in Sicilia. Lui voleva in Sicilia un prefetto, un super prefetto, un prefetto che coordinasse, e lo voleva in Sicilia un uomo che avesse dato prova di tenere in mano gli apparati e di sapere combattere la cosa, cosa che aveva fatto col terrorismo. Il giorno del lunedì di Pasqua lo passò con me a casa mia, abbiamo finito di mangiare, abbiamo fatto una passeggiata sul lungo Tevere. Mi disse, devi dire a Berlinguer, Luis, dice ai compagni, che così come si stanno sviluppando le uccisioni della mafia, è un piano, e dentro questo piano ci siamo noi. Ora toccherà uno di noi, toccherà uno di noi. Ma l'amico di una vita non farà in tempo ad avvertire Enrico Berlinguer. Per Pio La Torre, infatti, il tempo è scaduto. E adesso, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Thank God it's... Buongiorno Ale Cravetto. Buongiorno Fiori. Ah Cravetto, senti, io ti voglio raccontare una cosa, perché è arrivato un messaggio bellissimo. Mm-hmm. Forse, non lo so. Insomma è un messaggio che ti devo assolutamente leggere. Anzi io l'ho già fatto, a te l'ho già letto, ma lo devo leggere pubblicamente. Sei pronta? Vai. Carine queste due, che saremo io e te, eh? Cravetto e Ale, una torinese e una romana. Sì. Carine. Praticamente le due anime di Minoli, una della Torino bene e una della Roma bene. Bene. Bene. Intanto grazie a Maurizio, anche per il bene. Ma quello che voglio chiedere a te, Cravetto, è, secondo te c'è dell'ironia? Ma non lo so, spero di no. Comunque, anche se ironico, io lo trovo... carino. Carino, perché lo sai che carino per una donna è un po' come... Vabbè, è un insulto, perché un sì ma non è sì, insomma è come se fosse un ni. È un ni, è un ni. Oppure, se vogliamo andare avanti, diciamo che può essere anche il sinonimo di innocua. Mi viene in mente un articolo uscito qualche giorno fa sul Corriere, uno studio fatto da McKinsey, che titolava «Perché le donne non fanno i capi?». Perché, Cravetto? Perché alla fine le donne che insistono su una promozione hanno il 30% di probabilità in più di ricevere una valutazione negativa sul carattere. E quindi? E quindi le donne hanno un brutto carattere. Eh no, scusami Cravetto, forse gli uomini ambiziosi sono uomini ambiziosi. Le donne che osano ambire sono delle rompipalle. Vabbè, direi che buon così. Buon così. Comunque, per tirarti su il morale, io adesso ti racconterò una favola, una fiaba bellissima. Asia è una bambina abbandonata in un orfanotrofio e si innamora di un buono a nulla capace di tutto, che infatti da grande prima diventa il suo pappone e poi finisce per venderla come madre surrogata per l'erede di due ricconi americani. Ma durante la gravidanza una vocina sveglia Asia. «Ma che sei scema, mamma? Ma che davvero mi vuoi dare a quei due?» È Chico, il suo bambino che le parla dalla pancia. È lui, il vero protagonista di Non mi vendere mamma, il nuovo libro di Barbara Alberti che, sfrontato, simpaticissimo, anarchico e affabulatore, è pronto a tutto per convincere Asia a non abbandonarlo perché per lui, lei, è comunque mamma. Barbara Alberti, cercando di convincere Asia a non venderlo, Chico le dice che fare la madre surrogata è un'umiliazione molto peggiore di qualsiasi marchetta abbia mai dovuto fare. Perché? Beh, è evidente, perché come dice Chico a lei, quando lei dice ma dai, mi danno 150.000 cucchi, ma quando mai li vedo? E gli dice ma sapessi quante marchette ho fatto? E lui risponde, sì ma dare il culo è niente mamma, passa subito, mentre questa cosa non passa. Ecco, posso immaginare il rapporto di una madre che c'è un bambino per 9 mesi, poi ti sei visto, lo trovo terrificante. Nel tuo libro la maternità surrogata appunto è descritta come il trionfo del ricco sul povero, ma nella realtà passa per una battaglia progressista. Perché secondo te? È un abbaglio mondiale proprio. Io non so, forse le persone a sinistra hanno paura di non essere abbastanza moderni, perché è la schiavitù al cubo, perché non vendi te stesso, addirittura metti al mondo una persona per venderla. Pensa anche la creatura, nascere per negazione, è atroce. E devo dire che è un rovesciamento di prospettiva sconvolgente. Poi capisci bene quando dicono appunto con atto d'amore, infatti è pieno di miliardari che fanno i figli per le coppie di immigrati. Dai, su, ma dove siamo? Insomma, ma avere i figli è un diritto o no? Ma tanto per cominciare, l'unico atto d'amore qua lo dovrebbe fare lo Stato, favorendo le adozioni, perché c'è un loschissimo affare per cui le adozioni sono difficilissime. Ecco, quindi è un diritto. Prenditelo, fai questo atto di rassicurazione straordinario, ma a tutti i costi, sacrificando delle persone, no, non mi pare che sia un diritto. Ecco Barbara, tu sei stata una femminista, ma la maternità surrogata non può essere un modo di riaffermare il diritto della donna di fare ciò che vuole del suo corpo? No, aspetta, io sono sempre stata un nemico tra gli amici, nel senso che delle femministe ci ho fatto un saltino in questo teatrino della Maddalena negli anni 70 e poi me ne sono, erano cattivissime. Cattive. Cioè, io sono molto grata perché poi anche le femministe con Baffi hanno fatto sì che abbiamo dei diritti, per dire, hanno cambiato le leggi, però devo dire che non mi riconosco, non sono femminista, che vuol dire per la giustizia, comunque per i diritti di tutti. Non soltanto delle femmine. Lillo, il fidanzato pappone di Asia, è descritto come uno troppo stupido per volere bene. Eppure Asia è pronta a tutto per lui. Ecco, ma perché le donne scelgono e fanno di tutto per uomini che non le meritano e non le amano? È un grande, terribile, dolorosissimo mistero. Secondo me la nostra schiavitù è così antica che prima di rimuoverla ci vorrà non so quanto tempo e non so se sarà veramente mai fatto. In questi giorni sono sconvolta da questa ragazza che pare che il fidanzato gli abbia dato fuoco, sì. E lei lo difende. Ecco, tu mi chiedi perché accade, se lo sapessi sarei io, non lo so, sono soltanto molto addolorata per questo. Tu hai detto che delle conquiste che credeva di aver fatto la tua generazione si è impadronito il mercato, ovvero? Se pensi alla cosiddetta libertà sessuale, adesso è diventato un obbligo, una volta c'era il confessore, sì, che ti chiedeva morbosamente quante volte l'hai fatto, adesso c'è il sessuologo che ti chiede quante volte non l'hai fatto. diritto. Se non sei nella norma, sei da curare. È assurdo. Cioè, si è perso il senso anche della libertà, ad esempio della castità. Ecco, per esempio, non è una forma di libertà sessuale, altro che. Invece no, c'è l'obbligo. E questo obbligo e questa pansessualità obbligatoria è veramente una escrescenza del mercato. Addirittura c'è la colonizzazione dell'immaginario erotico. Addirittura ci sono perversioni che una volta erano, diciamo, aristocratiche, che adesso sono diventate di massa, perché sono obbligate dal mercato. Tra le perversioni e le assurdità, secondo Cico, la tecnologia moltiplica la stupidità umana. Quindi noi siamo destinati a essere sempre più stupidi? Ho paura di sì. Perché sai, prima, per esempio, ammazzare 10.000 persone a mano era un lavoraccio, ci voleva un sacco di tempo, adesso premi un bottone. Cioè, noi abbiamo un cervello da età della pietra, però con dei mezzi divini. Barbara, un'ultima domanda. Tu scrivi che più il mondo è brutto, più dobbiamo essere bellissimi, ma scrivi anche che bisogna avere i mezzi per essere diversi. Allora come si fa? Beh, è un paradosso, naturalmente. Tanto è un'utopia quella di essere bellissimi in un mondo brutto, perché ogni sera noi, anche con tutte le buone intenzioni, quando vai a dormire dici: Madonna, ma quanta volgarità avrò inalato e quanta ne avrò diffusa. Ai miei tempi era molto facile essere liberi, sai, perché con 100.000 euro al mese tu vivevi. Adesso no, adesso sei, se non hai denaro, sei veramente, devi essere un santo per sostenere questo. E allora la libertà delle favole contro il potere dei soldi. Infatti, quello che mi interessa dire soprattutto è che questo libro è una favola, perché la favola, l'immaginazione è la porta della rivolta, è la porta della ribellione. Senza immaginazione non c'è neanche la dignità di immaginare una vita diversa da quella che ti impongono. Barbara Alberti, Non mi vendere mamma, Nottetempo. Bella questa favola, molto bella e interessante, un sacco di spunti belli. Molti, cioè, molti spunti, molto bella. E a proposito, quindi, di favole, io continuo su questa falsa riga qua. Mi segui? Ti seguo. Anzi, la segui? La seguo, vi seguo. E vi voglio raccontare invece un libro di favole della Buonanotte, ma per bambine ribelli. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Allora, mamme e smamme, segnatevi questo titolo, ve lo dico in inglese: Good Night Stories for Rebel Girls. Ho detto scrivere. Bene? L'ho detto bene? Non lo so, penso di sì, non lo so scrivere. Allora, è un libro di favole della Buonanotte, dove le favole sono le storie vere di 100 donne straordinarie del passato e di oggi che possono essere dei modelli positivi per le bambine. Per esempio? C'è Elisabetta Prima, c'è la pittrice Frida Kahlo, c'è anche una tennista, Serena Williams. Oppure ma è bello, è molto bello, divertente. Bello, divertente. Oppure c'è la storia di Zaha Hadid, una grandissima architetta. Però la roba è divertente è che raccontano che invece che entrare, c'era una volta una ragazza che voleva sposare il principe azzurro. Ogni storia racconta: c'era una volta una ragazza che voleva diventare un astronauta, una pittrice, una cosa. Per cui ogni storia è una storia da prendere ad esempio. Aspetta, allora, Cravetto, ma tu, per esempio, cosa volevi fare da grande? Me lo chiedo tutti i giorni. Ah, non l'hai capito ancora? Ah, vabbè, ok, basta, non te la faccio più questa domanda, è troppo pericolosa. Tu invece? Io non me lo sono mai chiesto. Allora, inizia a pensarci. Perché io però ho più tempo per pensarci. Sì, di qualche mese, qualche anno. Però inizia a pensarci, perché ti dico solo che c'è chi, che è anche molto più giovane di noi, che ha le idee molto più chiare, perché la storia che ti racconto adesso è una specie di Steve Jobs alla napoletana. Oh, i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Giuseppe Pinto, 33 anni, napoletano, ha progettato nello scantinato di casa sua il giradischi ON, che unisce il vecchio concetto di ascoltare musica con i vinili con le nuove tecnologie. Senti, mi spieghi esattamente come funziona ON? ON racchiude un po', come dire, 80 anni di ricerca elettronica. La mia visione è stata proprio quella lì, di presentare un prodotto sul mercato che si presentasse come un giradischi, però che riuscisse a fare anche le funzionalità moderne come quelle che noi utilizziamo tramite il cellulare, perché comunque alla fine noi, l'80% dei noi giovani ascoltano mai musica dal cellulare, non più dai vinili. Però riscoprire il vinile è una cosa da intenditori. oltre agli intenditori, alla nuova generazione si sta affacciando nuovamente a questa cosa. La tua passione per la musica da dove arriva? Arriva un po' dai miei tre nonni, il nonno materno, paterno e l'amico dei due nonni, perché il nonno paterno è quello che mi ha insegnato l'elettronica, sono un vecchio radiotecnico che lavora ancora con me ed è vivo all'età di 89 anni, quindi veniva spesso giù al mio sottoscala. L'altro nonno invece è finito, era un appassionato di ascolto di musica di questi mega impianti dove c'aveva questi registratori a bobine, amplificatori di McIntosh e tutto. Io da bambino mi chiedevo nello studio con lui ad ascoltare musica. Senti, ho letto che a 10 anni hai progettato il tuo primo amplificatore. Il mio primo amplificatore di 45 watt, ispirato da una rivista di settore che mi aveva sempre regalato mio nonno. Sì. Quindi hai progettato questo giradischi ON, il primo prototipo nel tuo sottoscala, e dopodiché dove sei andato a venderlo? A chi l'hai fatto vedere? Allora, io in primis ne ho costruiti 7 completamente artigianali e l'ho presentato alla Fiera di Monaco. Mi sono fittato un furgone qui da Napoli, mi sono costruito un tavolo, sono andato lì alla Fiera di Monaco e l'ho presentato al pubblico. E com'è andata? Dopo il primo giorno abbiamo avuto più di 120 contatti di distribuzione in tutto il mondo. Quindi benissimo, la grande. È andato molto bene, sì, eravamo la novità della fiera. Però poi ha avuto un problema, cioè una volta arrivati gli ordini, come facevi a costruirlo? Mi sono rivolto qui ad un'azienda in Campania dove è riuscita a supportarmi solo per l'acquisto di materie prime per i primi 50 giradischi, dove li ho costruiti interamente sempre io a mano. 50. Ma non ti sei rivolto a dei fondi che finanziano startup, che finanziano nuove idee, cioè non sei andato a cercare soldi? L'ho fatto un anno e mezzo fa, quando ho iniziato a bozzare il progetto e costruirne uno. Mi sono presentato come startup innovativa con un prodotto funzionante. Sì. Però non c'è stata alcuna risposta. L'unica cosa che siamo riusciti a fare è stato quello di avere un prestito personale di 30.000 euro. Quindi te lo sei autofinanziato totalmente, in poche parole? Assolutamente sì, completamente finanziato. Senti, dopo Monaco quindi che cosa hai fatto? È andata che siamo stati promossi come prodotto dell'anno di Wired UK, sì. Germania e tante altre pubblicazioni, abbiamo ricevuto più di 80 pubblicazioni. E a tal proposito ci ha contattato il CIS come prodotto innovativo di startup innovativo. Dimmi, cos'è il CIS? È la fiera più grande al mondo dell'elettronica di consumer. Quindi ON è stato invitato a partecipare a questa fiera qui, ed è qui che McIntosh ti ha notato. Ho notato soprattutto la mia inventiva di questo prodotto, di come sono riuscito a farlo e qual è stato il concept per il quale ho fatto questo prodotto, e subito mi hanno chiesto la proposta di entrare a partecipare nella ricerca e sviluppo del gruppo McIntosh. Quindi eri sul punto di mollare, eri sul punto di rimanere nel tuo scantinato, invece oggi lavori per la McIntosh. Di che cosa ti occupi? Ricerca e sviluppo su tutti i nuovi prodotti della McIntosh Group. E dove lavori? Qui in Italia, non sono una mente che vado via in America o chissà dove. Giuseppe, ma il tuo giradischi ON, se io oggi lo volessi comprare, dove lo trovo? Al momento sono solamente dei pezzi rari, sono questi gli ultimi 10 che sono rimasti. Adesso che chiudiamo questa cosa con McIntosh si vedrà qual è il futuro della vendita di ON. La tua storia, che parte da uno scantinato o da un garage, fa molto Steve Jobs, non trovi? Sì, però io sono più della scuola che ho studiato, della scuola olivettiana, è quella che mi hanno insegnato i miei nonni, che Steve Jobs non lo conoscevano minimamente. Sono uomini che mi hanno insegnato che hanno costruito tutto dal nulla, perché in periodi di guerra loro non avevano opportunità di comprare nulla. Quindi nel tuo caso è la tradizione che conta. Assolutamente sì, è la generazione dei nonni che mi hanno costruito a portare a fare questo. C'era una vodka, forse erano due. C'era una mucca, un asinello e un bue. La mucca è sempre causa di problemi, e tu fin da bambino te le bevi. C'era una vodka. Beh, e bellissimo. Ora c'è una mamma che ha bisogno però di un drink. È scritto da una mamma che scopre di essere incinta, poi diventa mamma, e scrive che non si sente tanto mamma e neanche tanto bene. La capisci? È complicato. Il tunnel della gravidanza e la post-gravidanza, appunto. E dell'alcolismo insieme. Cioè, sono due cose complicate, sì. Ecco, sì. Da questo blog è nato anche un libro che inizia così. C'è una cosa che dovete sapere. Le pessime madri non esistono. O meglio, non esiste un solo tipo di pessima madre. Che tu sia una mamma smart, pronta a lasciare la parola ai nonni, alle babysitter, allora tanto vale riderci su. Perché questo manuale di sopravvivenza per pessime madri è un libro che racconta da mamma a mamma la verità sulla maternità. E la cosa più bella è che ti dice: essere una pessima madre in realtà è il modo migliore per sopravvivere ai tuoi bambini. Ah beh, è un po' autoassolutoria, però è molto utile, è l'antisenso di colpa. Esatto. Secondo te ne ho bisogno? No, però fatti una vodka. No? C'era una vodka, forse erano due. C'era una mucca, un asinello e un bue. La mucca è sempre causa di problemi, e tu fin da bambino te le bevi. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Rotolando verso sud dei Negrita e rotolando verso nord dalla sua Calabria è arrivato Franco Schipani. Esatto, da Santa Caterina dello Ionio per essere precisi. Sì. Rotolando verso sud, tormentone dell'estate 2005, ha fatto un grande scalpore, grande successo del festival ed è stato aggiunto alla compilation del Festival Bar. Ecco, e cos'altro mi racconti di questo gruppo? Che ti racconto? Sono un gruppo di Arezzo molto bravi. E perché hanno scelto questo nome? Perché hanno sentito una volta una canzone di un gruppo, sì, e hanno deciso di prendere questo nome. Il gruppo era The Rolling Stones. Grita, che era tutto dedicato alle donne con i capelli scuri, dalla carnagione scura, quindi le belle moraccione. Esatto, il titolo della canzone, del brano dei Rolling Stones, che erano in pieno trip. Peter Tosh si chiama proprio così, Hey Negrita. Senti Frankie, io adesso vado via perché non so se ti sei accorto, ma la Fiori al momento non c'è. Ma come facevo a non accorgermi che la Fiori non c'è? Noi splendiamo di luce riflessa quando lei è qui nello studio. Ci siamo ritagliati questo secondo me è rotolata verso sud, ma ritornerà prestissimo. Perché con te andrete nel 2005. Va bene, allora guarda, io aspetto la Fiori e con lei subito dopo la pubblicità vi racconteremo il 2005.